Non farlo è solamente una questione temporale, a un certo punto arriva, punto e basta. A un certo punto han chiuso l'ingresso principale e hanno detto avete perso il posto. È vero, il mio lavoro è sempre stato infame, ma l'ho chiamato sempre il mio lavoro. E ci ha spostato sempre un po' più avanti la pensione, ma quello adesso è l'ultimo pensiero. Non ho che te, non ho che te, ti chiedo scusa se ti offro così poco. Non ho che te, non ho che te, volevo darti tutto ciò che avrei dovuto. Volevo darti tutto ciò che avrei voluto. L'inferno è solamente una questione personale, all'improvviso il posto che frequenti. In banca son gentili ma non mi danno niente, la stessa gentilezza del serpente. I giorni sono lunghi, non vogliono finire, le luci sono quasi tutte spente. Il sindacato chiede un'altra mobilitazione per quelli che ci sono ancora dentro. Non ho che te, non ho che te, che cosa ho fatto per meritarmi tanto? Non ho che te, non ho che te, ti chiedo scusa se non ti darò abbastanza. Ti chiedo scusa se ti chiederò pazienza. L'altro giorno ho visto il titolare, aveva gli occhi gonfi, la giacca da stirare. Mi ha visto, si è girato, stava male, aveva gli occhi vuoti, la barba da rifare. L'inferno è solamente una questione di calore, com'è che sento il gelo nelle ossa? Che cosa te ne fai di un uomo che non ha un lavoro? Di tutti quei vorrei però non posso. Vedessi quanto buio sotto questo sole, ma è molto meglio se non vedi niente. Vedessi dove arrivano i pensieri di qualcuno, vedessi amore come fa spavento. Non ho che te, non ho che te, ti chiedo scusa se ti offro così poco. Non ho che te, non ho che te, volevo darti tutto ciò che avrei dovuto. Non ho che te, non ho che te, che cosa ho fatto per meritarmi tanto? Non ho che te, non ho che te, ti chiedo scusa se non ti darò abbastanza. Ti chiedo scusa se ti chiederò pazienza.